Si crean valori, si conservano valori, si crean valori, si conservano valori, nuovo valore nella forma utile del prodotto, nuovo valore nella forma utile del prodotto. I mezzi di produzione perdono valore, il valore logo, la loro utilità, i mezzi di produzione perdono valore, il valore logo, la loro utilità, lavoro vivente conserva e aggiunge valore, bam, bam. Lavoro vivente conserva e aggiunge valore, bam, bam. Mezzi di produzione di lavoro, materie prime e ausiliari sono capitale costante. Mezzi di produzione di lavoro, materie prime e ausiliari sono capitale costante. Forza lavoro è solo forza lavoro e capitale variabile. Forza lavoro è solo forza lavoro.